Eccoci con Laura Nardi per parlare dello spettacolo Io Obietto, che sarà in scena il 9-10 febbraio al Teatro Biblioteca Quarticciolo, uno spettacolo di Elisabetta Canitano con alcune attrici in scena e una produzione articolata che adesso vedremo. Intanto Laura, ben ritrovata. Grazie, grazie Federico. Parliamo subito un po' del tema. Sì, allora Io Obietto è un testo di Elisabetta Canitano che per chi non la conoscesse è una ginecologa attivista, presidente di Vita di Donna, che è un'associazione che si occupa della salute e della tutela della donna a livello gratuito, su tutto il territorio nazionale. Elisabetta Canitano da anni, lotta con tutta una serie di altri obiettori, contro gli obiettori di coscienza e quindi contro la difficoltà che le donne incontrano oggi, nonostante tutte le lotte fatte negli anni 70, nonostante la legge 194 che permette l'aborto, oggi le donne hanno difficoltà ad abortire perché il 70% dei ginecologi è obiettore. Lì dove non incontri il non obiettore, poi ti ritrovi magari il 50% di anestesisti obiettore. Quindi, insomma, è veramente per le donne diventa una via crucis. Quelle che hanno la possibilità economica vanno all'estero, quelle che non hanno la possibilità economica mettono a rischio anche la propria vita. Allora, partiamo da Io Obietto. Io Obietto è un testo ispirato a una vicenda che è accaduta nel 2016, che non so se ti ricordi, Valentina Milluzzo, è veramente ispirato, cioè non Sì, ricalca, sì. però prende spunto da quell'evento Ok. lì. Nel 2016 Valentina Milluzzo, che è questa ragazza circa di 27 anni, va all'ospedale Cannizzaro di Catania perché è incinta di due gemelli e ha l'utero dilatato. I medici la tengono in ospedale 15 giorni senza mai intervenire, tranquillizzando anche i familiari, senza mostrare nessun tipo di preoccupazione rispetto alla donna. Invece la donna muore di setticemia con i suoi due gemelli. Perché? Perché nonostante esista una legge della 194 che tutela l'aborto, esiste un'altra legge, che è una le legge ospedaliera e religiosa. Cioè finché c'è il battito fetale del feto, o se vogliamo lo chiamiamo bambino, non si può intervenire, anche se per il bambino non c'è niente da fare, cioè quel feto, quel bambino non sopravviverà mai, non porterà mai a termine la gravidanza, sarà comunque destinato a soccombere. Quindi anche se la donna rischia pericolo di vita e per il piccolo non c'è niente da fare, gli non abortisti non intervengono e possono succedere situazioni paradossali come quella di Valentina, che a 27 anni muore perché prima hanno aspettato la fine del battito del primo gemello e poi hanno aspettato la fine del battito del secondo gemello, ma i tempi della setticemia però sono un po' più rapidi. E non è l'unico caso, qualche anno fa un caso assolutamente analogo, identico, è avvenuto in Irlanda, dove una dottoressa, tra l'altro lei era una dentista, dico non mi ricordo il nome, perché è difficile memorizzarlo, anche lei deceduta per questo motivo. Quindi di che cosa parla Io Obietto? Ovviamente è semplicemente ispirato alla vicenda di Valentina, ma ripercorre la storia di questa donna bianca incinta di due gemelli e svela quali sono i meccanismi all'interno dell'ospedale, tra i ginecologi e la direzione sanitaria, per cui può accadere che una madre, che può essere vostra madre, una figlia può essere vostra figlia, una sorella può essere vostra sorella, possono perdere la vita. Poi, come dice Lisa, le donne sono forti, sopravvivono sempre, però può succedere. Certo. Senti, ma il testo di Elisabetta è nato come testo teatrale? È nato come testo teatrale, sì. Ovviamente noi, come gruppo di artisti e artiste, che siamo Gemma Carbone, Gaia Insenga, Daniela Giordano e poi tu, per la regia di Amandio Pigneiro, Elisabetta ha una precedente esperienza in teatro, però ovviamente ha scritto questo testo e noi l'abbiamo in qualche modo compattato, integrato, seguendo i suoi suggerimenti. Sì, Sì. Cioè, quindi non con tutta questa libertà, però ovviamente lei ci ha dato degli spunti fantastici da cui andare a prendere elementi. Senti, tra le strutture che lo producono anche la Casa Internazionale delle Donne. Sì, perché tra l'altro Lisa Carri, La vita di donna è una delle associazioni all'interno della Casa Internazionale delle Donne ed è uno, e la stessa Lisa è uno dei perni della casa. E la casa ci ha sostenuto dandoci gli spazi per esempio per le prove, poi faremo comunque in estate anche lì una presentazione di Io Obietto, poi del resto la conosci bene, la casa si lotta per i diritti delle donne. Si tratta di una prima? Sì. Prima assoluta, il 9 alle 21 debuttiamo in Ok, prima poi avrà un suo assoluta. percorso. Allora, nel frattempo si sta strutturando Sì. il percorso, sempre grazie a Lisa, come è stato per un precedente spettacolo che ho fatto, che ti ricorderai, che era Il Messiere più antico del mondo, scritto da Gabriella Pacini, ostetrica, anche in questo caso. Come è stato per Gabriella, ostetica, anche qui Lisa, ginecologa, si sta muovendo per portare lo spettacolo anche in spazi non convenzionali, che sono legati alle strutture sanitarie, agli ambienti in cui si lavora per ripristinare la legalità e togliere la funzione religiosa dall'ospedale pubblico, per cui si sta facendo Trieste, Lecce, Mantova, ma sono percorsi più difficili quando non c'è l'ente teatrale, che però magari è meno interessato a questo, anzi ringrazio il Teatro Biblioteca Quarteggiolo perché ha preso il progetto, risulta come coproduttore, ha preso il progetto a scatola chiusa, solo Ok. per l'idea. Senti, e per i riferimenti web, oltre al quarticciolo, c'è anche la vostra struttura? Ok. Sì, Teatro Causa, ma soprattutto una pagina Facebook. Se scrivete Io Obietto, compare Io Obietto Canitano Causa e lì ci sono tutti i riferimenti, dell'evento. Benissimo, allora ricordiamo, Io Obietto, 9 e 10 febbraio alle ore 21, Teatro Biblioteca Quarticciolo, testo di Elisabetta Canitano e un ringraziamento a Laura Nardi. A Grazie e buona giornata. Grazie, posto. hai visto? È stato